quindi gli effetti si vedono, quindi avete scelto una controprogrammazione perfetta. Poi sai i duetti, che è proprio quella sera che piace anche a quelli che non guardano Sanremo, perché dici tanto sento le canzoni di una volta. Ah, ma stasera sono i duetti? Ah, scusate, allora. Alberto Vitale. No, spero non vada via davvero, no, non hai iniziato niente, era solo un modo per far capire alle persone invisibili di sedersi, ma forse lo hanno... Allora tu dici che è già finita la serata. Tanto io e lei ci conosciamo, quindi sembra una ragazza del pubblico molto partecipe, in realtà mi conosci, il che rende ancora tutto più triste. Però... Metà del pubblico è pubblico amico comunque. Purtroppo sì, che è anche il pubblico più difficile, perché ne conosco 1, 2, 3, 4, 5 là dietro, che tra l'altro sta al bancone del bar, proprio se ne batte i coglioni del fatto che un suo amico quasi fratello, perché qui è più di un'amicizia, stia là a farsi cazzi. Lo so che mi guardi. No, non abbiamo iniziato. Tra l'altro se ne sta battendo il cazzo con il comico che deve esibirsi qua stasera. Questo fa capire il livello di quanto ci tiene Valerio a questa serata. Non è successo niente, si sta parlando male di te. Vedi che non è neanche bello farlo, perché tu le offese le prendi come complimenti. Te per trattarti male bisogna dire che bravo ragazzo, aiuta le vecchine a attraversare la strada, paga le tasse, queste cose qua. Lo so che non ci crede nessuno. Come ti chiami tu che hai allargato le braccia subito in un nanosecondo? Ma conosci bene Valerio? Lo seguo sullo zoo. Ah, lo insegui. Quindi hai saputo dell'affare sospensione? Sai che è stato sospeso per qualche giorno dallo zoo, no? Come no? Allora Valerio, dopo te la lascio a te. È un bellissimo aneddoto di censura che in Italia, anche nel 2023, artisti come Valerio e Ro vengono censurati perché hanno un pensiero libero. Vero Valerio? Lo so. Ma te li hanno pagati quei giorni di censura, curiosità? Sì. Ah beh, allora fallo ancora. Sei stato a casa. No, ma allora bestemmi la prossima volta. Ma non è chiarissimo, perché lo zoo è volgarissimo, eccetera, eccetera, e ti hanno censurato. Cioè, per farti capire il livello di quello che può aver detto, è stato censurato da un programma dove ancora bestemmiano. Comunque le donne le chiamano mignotte per essere gentili. Si usa il termine mongoloide, credo, spesso e volentieri, ma comunque hanno censurato Valerio e Ro. È incredibile. Che ora sono qua, signori? Sì, ma tanto sì, tanto poi ci conosciamo lo stesso anche se siete davanti, e rende sempre tutto più triste il fatto che siate davanti. Nonostante l'assenza dei cuscini, sei sicura? Ma lei ha il diaframma che va solo se è seduta, altrimenti... è una questione di ossigeno, stasera ragazzi è una serata particolare, chi sa cantare e ha canzoni in mente basta che alzi la mano. Ma va bene, guarda, qui c'è tanta gente dei poveri qua sopra su questo palco, quindi io comunque adesso lascio il microfono a Alberto Vitale, anzi non lo lascio a nessuno, lo lascio che fra 2 minuti iniziamo. Grazie a tutti, buona serata. Volevamo proprio creare questo momento di silenzio che aiuta sicuramente i comici. Arriviamo, Va bene, dai, iniziamo noi allora. Oh, buonasera. Buonasera. Allora, la prima informazione, come avrete visto, non sono Andrea Fadenti perché non ho il ciuffo. E non sono Valerio Ro perché non ho un bicchiere di vino in mano, quindi, e non sto bestemmiando. Allora, non so se voi state seguendo Sanremo in questi giorni, probabilmente i giorni scorsi, peccato non seguirlo anche stasera, ma siamo qua. E, io l'ho visto poco in realtà, ma ho letto un po' di notizie. Ad esempio la prima sera Chiara Ferragni si è presentata con un abito in cui era disegnato il suo corpo, l'avrete sicuramente notato, è una cosa che ho trovato molto bella, molto, molto giusta infatti presentarsi in questo modo. E quindi pensato che io di presentarmi con un abito dal suo stesso stilista. Lei ha scritto alla è un cazzo se non si vede, no, figurati, c'era questo, volevo incominciare con questo tocco di classe. Lo so, l'ho fatto disegnare mia figlia e purtroppo è venuto fuori questo, non è molto esperta. E, lei giustamente ha detto a se stessa bambina, non preoccuparti, non aver paura di non essere abbastanza. Anch'io vorrei dire a me stesso bambino, non preoccuparti di non essere abbastanza coglione perché ci riuscirai benissimo. Quindi è una cosa che sono stato molto bravo. No, no, figuriamoci, no, stasera la loro seratona. E, niente, beh, io dicevo, non ho visto Sanremo, ho visto un film l'altra sera, ho visto il seguito di Castaway. Non so se avete presente Castaway, è quel film in cui c'è quel naufrago che viene, appunto, rimane in un'isola deserta e deve procacciarsi il cibo mangiando i pesci crudi, salendo sulle palme da cocco, mangiando quello che trova. Il seguito è molto bello, nel seguito lui riesce finalmente ad arrivare in una città, a star lì tranquillo, però non ha più voglia di sbattersi a cercare cibo e così ordina tutto da casa. E si intitola Take Away. Vabbè, venendo comunque alle serate, dicevo, Chiara Ferragni mi è venuta in mente, ha fatto una lettera, a stessa bambina, anch'io ho scritto una lettera, in realtà la lettera che ho scritto io è a una ragazza con cui sono stato insieme un po' di anni fa e ci siamo lasciati, però ecco, ci tenevo a leggervela anch'io in questo momento di serietà e come la Ferragni. Questa è una lettera d'amore però, quindi serve un po' di luci giuste, un po' di musica di sottofondo. Perfetto, esattamente questa. Cara Elena, mi manchi. Da quando ci siamo lasciati non ho più avuto donne. Ricordi il nostro addio? Ricordi quanto fu toccante? Da allora mi sono toccato tante altre volte. Adoravo i tuoi tatuaggi, Elena, quelli che ti eri fatta da ragazza. La freccia sul seno ed il bersaglio sull'inguine. Che gioia vedere che dopo solo 15 anni la freccia aveva raggiunto il bersaglio. Ricordi il nostro uccellino, Elena? Quello che ci svegliava ogni mattina presto con il suo allegro trillo, puntuale come una sveglia. Tutte le mattine alle 7 me l'avevi regalato tu. L'ho strangolato, mi ho rotto il cazzo di alzarmi alle 7. Ricordi quando ti regalai dei cioccolatini e tu mi dicesti i cioccolatini finiscono, un diamante per sempre. Poi ti regalai dei fiori e tu mi dicesti i fiori appassiscono, un diamante per sempre. Allora ti regalai dei vestiti, ma tu mi dicesti i vestiti vanno fuori moda, un diamante per sempre. Ho sempre avuto sospetto che volessi dirmi qualcosa, Elena. La prima volta che ci siamo incontrati, ricordo che mi dicesti che ti piacevano i fiori. Io venni a casa tua col trapano e ti bucai la casa. E che avevo capito fuori. Sono sempre stato un po' sordo, Elena. Ah, se avessi un centesimo per tutte le volte che mi hai detto ti amo, ora avrei un centesimo. Me l'hai detto una volta sola, Elena, tra l'altro ho sospetto tu abbia detto andiamo. E poi andammo a vivere insieme. Ogni mattina tu mi bruciavi il caffè, ma non avevi mai il coraggio di dirmelo. Ed io lo bevevo senza fiatare per non offenderti. Beh, ti rivelerò una cosa. Anch'io non ho mai avuto il coraggio di dirti che ti sputavo nel latte per vendetta. E quanto ci piacevano gli animali, Elena. A te piacevano i cavalli e a me i cani. E questa passione ci coinvolgeva anche nel taglio di capelli. Tu, infatti, portavi sempre la coda di cavallo ed io li portavo a cazzo di cane. E ti ricordi quando andavamo insieme nei quartieri poveri? Andavamo con la macchina colma di dolciumi e ci fermavamo davanti all'orfanotrofio. Ti ricordi gli occhi di quei bambini poveri? Quanti dolci ci siamo mangiati di fronte a loro. A proposito di bambini, ricordo ancora quando mi dicesti che volevi avere dei figli ma avevi paura del parto. E ridendo mi dicesti, potremmo rapirne uno. Potevi dirmelo che scherzavi. Mi sono fatto 15 anni di galera per colpa tua. Detto questo, poi sono cresciuto. E ho avuto addirittura anch'io una donna incredibilmente, nonostante io insomma sia quello che sono, anche se in passato devo dire sono stato meglio di così. Io ho lavorato... Adesso mi vedete così, ma ho lavorato anche come spogliarellista, pensate, da giovane. Sì, sì, davvero. Ho fatto la spogliarellista, ricordo una volta ho fatto una serata in una discoteca frequentata da Colf Filippine. Io gli lanciavo i vestiti e loro me li tiravano indietro lavati e stirati. Sono riuscito comunque negli anni ad avere anch'io una donna. Sono stato per un po' con una ragazza acqua e sapone. Era abbastanza difficile stare con lei perché ogni volta che l'abbracciavo sgusciava via. Però alla fine sono riuscito incredibilmente anch'io a sposarmi e a riprodurmi, quindi anch'io ho due figlie che si chiamano, a cui voglio un gran bene, si chiamano Alessia e quell'altra, e sono molto contento delle mie bimbe, le voglio molto bene, hanno giusto il problema che non riescono ad addormentarsi la sera, ed è il motivo per cui ho scritto un libro di favole per loro, che è il modo migliore, diciamo, per creare l'ambiente giusto per una serata di cabaret, cioè far addormentare la gente. Questo è un libro di favole, se vi interessa, si intitola Favole per dormire, che ho scritto io, e c'è anche la versione in cinese, si intitola Dolmile per favole. È un libro molto bello, sono molto contento, ho avuto recensioni positive, mi ha scritto tempo fa una ragazza e mi ha detto grazie, io sono la mamma di un bambino di 5 anni, non si addormentava mai la sera e dovevo stare di fianco a lui tutta la notte sveglia. Ho comprato il tuo libro, ho letto il tuo libro di favole, i servizi sociali mi hanno tolto mio figlio e ora dormo benissimo. Quindi sono davvero molto contento di questo libro. Stasera ve ne leggo giusto una, giusto per lasciare lo spazio. Tra l'altro ho scritto alla Disney se erano interessati a fare un film con le mie favole. Hanno detto piuttosto facciamo un porno e mi sono subito iscritto a Disney Plus. Vi leggo, allora in realtà non sono molte di favole, in realtà ne ho scritta una sola, però quando mi avvicino al loro letto voglio avere qualcosa di pesante in mano. Allora, questa si intitola Il bambino e l'uccellino. Mi metto gli occhiali, scusate, ma non è l'età, è che mi faccio ancora un sacco di pippe. Stessa luce di prima, perfetto. C'era una volta un bambino molto povero che abitava sui monti e che andava a scuola a piedi perché non aveva i soldi per l'autobus. Peccato abitasse a 27 chilometri da scuola e la sera, quando si toglieva le scarpe di cartone, guardava i suoi piedi pieni di vesciche purulenti che scoppiavano lanciando pus marcio in tutte le direzioni. Con questo già i bambini cominciano un po' ad addormentarsi. Lui guardava i suoi piedini e con sua vocina diceva «Cazzo che stanchezza!». Il povero bambino non poteva neanche fare la didattica a distanza, perché essendo molto povero aveva un computer talmente lento che nelle sue video lezioni si vedeva ancora Maria Montessori. Si mise così a piangere sotto un albero. Un uccellino che viveva lì lo vide e gli chiese «Perché piangi, piccolino?». Il bambino rispose «Piango perché non so come svegliarmi presto al mattino per andare a scuola». «Ci penserò io», disse l'uccellino. «Verrò tutte le mattine all'alba a battere con il becco sul vetro della tua finestra fino a svegliarti». Il bambino disse «Grazie, ma io sono un bambino molto povero. La mia casa non ha finestre». «Allora entrerò e ti batterò col becco sulla sponda del letto», rispose l'uccellino. «Io sono un bambino molto povero, non ho il letto». «Allora vengo e ti batterò col becco sulla fronte», rispose l'uccellino. «Io sono un bambino molto povero, non ho la fronte. Le sopracciglia partono subito dopo l'attaccatura dei capelli». «E vabbè, piccolino», disse l'uccellino, «non preoccuparti. Verrò ogni mattina per svegliarti, batterò col becco sui tuoi zigomi fino a svegliarti». E così, ogni mattina presto, alle prime luci dell'alba, l'uccellino entrava e svegliava il bimbo beccandolo sugli zigomi, tanto da fargli uscire fiotti di sangue dalle guance. Così. Ecco qua, il bambino già è rilassato e sta per dormire. Due mesi dopo, il bambino, che ormai aveva in faccia più punti rossi di un quindicenne con l'acne, chiamò l'uccellino e gli disse «Uccellino caro, grazie che mi sveglio ogni mattina presto. Grazie a te arrivo sempre puntuale a scuola, ma c'è una cosa che vorrei dirti. Vedi, tu mi svegli ogni mattina. Ma il fatto è che proprio ogni mattina, cioè tu mi chiami all'alba anche il sabato e la domenica, che io non dovrei andare a scuola, anzi avrei bisogno di riposarmi perché faccio 54 km al giorno. Guarda che vescico sotto i piedi. Caro piccolino, disse l'uccellino, io sono un uccellino, mica sono una sveglia programmabile. Per me tutti i giorni sono uguali. Per te forse, per me no. E che cazzo, il weekend voglio dormire, invece sei tu che mi picchietti qua sui zigomi e mi rompi anche un po' i coglioni però. Ma pensa a te, uno gli fa il favore e questo pure si lamenta. Ma allora svegliati da solo che anch'io ho da fare al mattino. Ma vaffanculo, te, uccellino di merda. E non si rividono mai più. Buonanotte e un bacio. Non voglio togliere troppo tempo ai veri protagonisti, spero comunque che ci facciano passare una splendida serata, ma sono sicuro che non lo faranno. E spero sia una bella serata, perché io tra l'altro vengo da una giornata un po' pesante in cui ho anche litigato, vi dico solo questo, con i miei vicini di casa. Mi hanno accusato, pensate, di avergli rigato la macchina con un chiodo, vero? Perché? Solo perché hanno visto dalla finestra che io in casa mia ho un crocifisso così. Detto questo, lascio la parola alla serata Andrea Fedenti. Alberto Vitale, un grande applauso. Grande applauso anche Alex Alge. Continuate, andiamo a moto continuo 20 minuti. Un grande applauso ad Amadeus. Ah, che tristezza, allora conosco lui, lei. Sì, ho cambiato un po' sesso, te l'ho chiamata lui, l'ho chiamato lui, lo conosco perché lavoro qua, te non ti conosco, sai che sei l'unico, quindi prendo te come metro di giudizio per stabilire se la serata andrà male, e andrà male. Conosco Michael, tu sei la ragazza di Michael? Sua moglie, complimenti, quanti anni avete? E da quanto siete sposati? Di quest'anno? Sì, ok, sì. E siete sicuri? Sì. No, chiedo. Facciamo un grande applauso, abbiamo fatto un applauso a tutti. Facciamo un grande applauso anche a chi si è sposato. Sto bevendo come? Sul loro matrimonio? No, sto bevendo per... sì, sulla serata. No, è una serata che parte con tutti i presupposti. Ah, conosco anche lei, sì, l'ho già detto, anche la ragazza là in fondo. Lei, ah, Alberto, sei quello che era qua sopra prima, quindi conosco anche te. Valerio non c'è, ma conosco anche lui. C'è un amico di Valerio che non conosco ed è fuori, quindi siete due persone che non conosco, c'è un 50% fuori e un 50% dentro. Te ti conosco, sì, ci siamo visti prima. Bellissima serata. Come va, ragazzi? State bene? Come mai siete qua, oltre perché siete stati obbligati dai comici che si esibiscono sul palco? Come va? State bene? Sì. Siete contenti di essere qua? Sì. C'era la serata di due... Adesso sì. Anche l'Ariston si stava meglio. Non è l'Ariston, tu dici, qui non c'è la scarinata, però possiamo fare un duetto io e Valerio, se avete voglia, se a un certo punto. Vai a chiamarlo, ma vai a dirgli semplicemente, guarda, dovresti stare dentro. Ma non per altro, per proprio una questione di educazione. State guardando Sanremo sta settimana, mi rendo conto che è banale, ma chi... no. Tu sì. Chi è che ha detto no? Chi è che ha detto sì? No. Vabbè, tu hai già un'ora e mezza di show, ti sei vista. No? Nessuno? Come mai? Vi fa schifo? Schifo? Ma poi siete quelli che ne parlano? No. Invece è interessante, perché comunque Sanremo, io è tre sere che me lo sto cuccando, nonostante non sia un fan, me lo sto cuccando perché comunque c'è un bello spaccato, se vogliamo, sociologico dell'Italia da un certo punto di vista. E dopo l'esibizione della Ferragni, grande, dove arrivi? Da meno due, dove cazzo, sembra un brigatista. Aldo Moro dov'è? Via Caetani tutto a posto? Cosa vuoi? Che tu stia qua dentro, guarda, già una situazione che è quello che è. Ma stavo fumando. Da quando è che fumi tu? Da quando è che fumi? No, no, ma ok, ma la mia è un'altra domanda. Da quando è che hai il vizio del fumo, al di là che paghi o meno? Non lo so, da quando ho iniziato a scoccare. Ma è tipo l'uovo o la gallina, è nato prima uno o dopo l'altro? Difficile ricordare. Beh, io ti vedo sempre più in forma. Tu sai che tra adesso, guarda, vediamo che ore sono. Sono le 22.30 alle 23, io me ne vado da qua, magari anche 5 minuti prima, e poi è tutto tuo, eh? Che li fai piangere? Guarda, c'è... Prometto che non se ne andrà nessuno. Dici? No, lui se ne va, guarda che faccia. Cazzo, se ne va. Sai che lui è l'unico che non conosciamo e dopo il tuo complimento probabilmente se ne va fuori dal caso. Ma sembra Bergomi. Sai che non mi sembra Bergomi? Voi due siete parenti? Perché avete una certa somiglianza. Ma io ho un occhio, il ragazzi. Babbo? No, il babbo, ma come puoi dire che è suo padre? Sarà suo fratello, occhio. Ma allora, 30 anni in più ce li ha. Sì, certo. 5, 10 anni, no, 5. E anche te c'hai il baffo, è di famiglia. Sì, sì, sono nati così, anche tu potresti essere loro. Io... Tu sei il fratello che non hanno voluto con i baffi. Io ormai ho fatto amicizia col baffo... Junior. Però il baffo senior, secondo me, a differenza del junior, ti mette le mani addosso. Vabbè, allora io vado. E tu lo aspettavi? Vuoi fare sta cazzo di mezz'ora? No, vabbè, oh, grazie di avermi scaldato il pubblico con le tue battute. Sarà tutto più facile. Pezzo di merda. Vai fuori, vai a bere. Vai a fare in culo, dai, niente, parliamo, raccontiamo una storia dell'infanzia, quelle storie che succedono quando si è giovane. Io quest'anno faccio 40 anni a novembre e vi racconto una storia adesso che mi è successa 20 anni fa ed è ambientata nel posto in cui vivevo 20 anni fa, ovvero un piccolo paese della provincia di Mantova, quindi siamo a 2 ore di distanza da qua, piccolo paese di 2000 persone. La cosa bella, particolare di vivere in un paese di 2000 persone è che conosci tutti, quindi conosci gente molto più grande e gente molto più piccola. Quindi il concetto di compagnia, quelli con cui esci, diciamo varia, non esci solo con i tuoi coetanei, esci appunto con gente molto più grande o con gente molto più piccola, perché ti trovi al bar, nella piazza del paese, cioè ti conosci tutti. La storia che vi racconto riguarda appunto me ed altre 3 persone. Abbiamo nella fattispecie Mirko, che 20 anni fa aveva la mia età, aveva i capelli a spazzola con le mesh bionde e faceva il camionista. E oggi nel 2023 ha ancora i capelli a spazzola con le mesh bionde e fa il camionista, quindi è un ragazzo coerente, abbiamo imparato questa cosa qua. Poi abbiamo Alberto, che all'epoca aveva 40 anni, quindi 20 anni più di me, e Alberto è un signore in carrozzina, tetraplegico, con un cappello della Ferrari rosso sempre in testa, cioè per farvi capire Jean Todt nelle stesse condizioni di Stephen Hawking. Se non sapete chi è Jean Todt, Alvaro Vitali nelle stesse condizioni di Stephen Hawking. C'è l'ultimo poi componente di questo fantastico gruppo dei Fantastici 4, che è Ivan, all'epoca 22enne, quindi 2 anni in più di me. Particolarità di Ivan, ragazzo buono, squisito, pezzo di pane, molto brutto, ma brutto non in modo convenzionale, brutto in modo particolare, tant'è che Ivan è anche molto autoironico, no? E quindi quando ha capito che la sua bruttezza era un po' particolare, ha trovato una definizione geniale di sé. Ivan di se stesso dice: io, signori, sono talmente brutto da essere a tanto così dal confine con il ritardo mentale. Sì. E aggiunge: se noi fingiamo per un attimo, in maniera astratta, che il ritardo mentale è la Francia, Ivan è Ventimiglia. Quindi a tanto così. Questa serata di 20 anni fa eravamo usciti da una cena in un ristorante della zona, quindi 00:30, ubriachi marci, 4 persone, in un paese di 2000 persone, era luglio, non mi ricordo, agosto, quindi caldo, in un paese di 2000 persone a 00:30 non hai molte alternative, soprattutto se sei ubriaco, quindi o vai a letto o vai a puttane, il classico puttan turpo, e noi siamo zone di lago, lago di Garda, quindi c'è sempre come dire, una grande presenza, e da giovani si faceva questa cosa qua, ma tanto per perdere tempo. Mi rendo conto che detta con il senno del 2023 suona come una cosa schifosa, ma all'epoca si era giovani. Non siamo andati a puttane, si è trovato un compromesso, il nightclub. Nightclub con le spogliarelliste, non so se siete pratici del mondo, qualcuno, tu sei sposato, avrai fatto un addio al celibato. Muto, non l'hai fatto, l'unico... Non deve servire a te, deve servire a lui. No, no, poi lei non è che è addio al celibato, chiavi, è l'addio al celibato. Cioè, grande, sei il numero uno. Ti rompe, curiosità, ti rompe i coglioni? Di soldi intendi? Vabbè, ma ci sta, ma siete giovani. Quindi niente, neanche te addio al nubilato, niente. Tu volevi mangiare? C'era un film di Boldi e De Sica, credo. Natalia, lei mi può aiutare, collega? Da Amsterdam era ambientato? Dove mangiavano? Merry Christmas, ha ragione, vabbè. Ve lo consiglio, andate a vedere quel film. No, quello del tacchino è un altro film. Comunque guardate quel film, potrebbe essere darvi degli spunti per quanto riguarda la vostra luna di miele. Comunque mi piacete già, siete una bellissima coppia. Facciamo un applauso a questi ragazzi. Comunque, al di là di tutto, vi stavo raccontando che quella serata si scelse di andare al night. E mi rendo conto che neanche l'unico uomo presente qua stasera ha dimestichezza con il luogo. So di per certo che qua dei ragazzi hanno dimestichezza, non li indico perché sono un signore, sono stato allora al dio celibato e posso giurare di per certo che ci fossero delle signore poco vestite. Ma il night, tanto per farlo inquadrare a chi non è del mestiere, sostanzialmente è quel posto, quel luogo, dove i maschi ci provano tutta sera con delle ragazze per poi non concludere niente, o come li chiamiamo noi uomini, appuntamenti. Ci metto un pochino, è ricamata questa qua, non è che sia proprio che devi morire. Comunque, sì. Quella sera lì siamo ubriachi, quindi di conseguenza andare ubriachi al night non è una grandissima idea, no? E allora, prima di partire, decidiamo di fare una cosa, di lasciare ovviamente portafoglio, tutti i contanti nella macchina, carta di credito, e di andare fuori solo con i 10-15 euro, non mi ricordo quanto servisse, per entrare all'ingresso e non fare danni, cioè proprio vai con i soldi contati. L'unica eccezione la fa il guidatore della macchina, che è quello che di professione fa il camionista, quindi quello più abituato a girare, che un po' per deformazione professionale dice: io la carta di credito me la porto, non si sa mai. Porca puttana, sta cazzo di voglia di prevedere i problemi, però purtroppo essendo sempre sulla strada si è fatto un certo tipo di forma mentis. Quindi partiamo, ubriachi come una merda, arriviamo al night, usciamo dalla macchina e all'ingresso il buttafuori ci guarda per quello che siamo. Uno con le punte bionde, io, uno in carrozzina e uno talmente brutto da sembrare un ritardato. Sembriamo gli Avengers della 104. Sembriamo la banda della Magliana a tanto così dal confine con il ritardo mentale. Una cosa inguardabile. Pensate a quello che spinge la carrozzella per entrare. C'è proprio una roba molto brutta. I buttafuori ci guardano, paghiamo con quei cazzo di 10-15 euro che abbiamo in tasca e riusciamo ad entrare dentro al night. Il night è un ambiente un po' particolare perché, cioè, come dire, ha tante categorie di persone. Ci sono, come dire, i depravati e ci sono semplicemente le compagnie di amici ubriachi che sono lì a cazzeggiare. Come distinguere i due gruppi? Se il gruppo è fatto da 2, 3, 4 persone, allora parliamo di amici ubriachi. Se invece parliamo di un singolo che cammina ossessivamente toccandosi la patta dei pantaloni, tendenzialmente è lì per segarsi. Noi appartenevamo ovviamente alla seconda categoria. Comunque andiamo al bancone, beviamo la bevanda che è compresa nel biglietto, nella consumazione ovviamente col biglietto d'ingresso, beviamo, siamo lì, ci guardiamo un po' intorno. Ad un certo punto troviamo un tavolo sguarnito, sapete quei tavoli dove ci sono ancora le bocce di champagne, ma probabilmente i tipi che erano lì, papponi sessantenni, sono andati a fare il privé con la tipa e quindi l'hanno lasciato sguarnito. Noi come quattro voltoi di merda, boom, ci fiondiamo, iniziamo a bere, bere, bere, bere, e quando bevi inizia a essere un po' debole al night. E devi stare attento perché al night ci sono le ragazze, le spogliarelliste che, essendo come le ciliegie una tira l'altra, faranno di tutto per cercare di farti fare un privé. La ragazza cerca di farti fare un privé perché sostanzialmente quando tu sei nel privé non hai potere e quindi sei molto alla mercé della ragazza che può spillarti più soldi. Ma la ragazza non parte dicendoti facciamo un privé, perché la ragazza è subdola. La ragazza arriva lì e ti dice ciao, mi offri da bere. E se tu offri davvero alla ragazza, se tu fai questo cazzo di errore, crei appunto questo ponte metaforico che ti proietta dal divanetto su cui sei seduto al divanetto all'interno del privé. Non è un ponte reale, è tipo il ponte sullo stretto di Messina. È una cosa, uno stato dell'anima. Tac, sei dentro il divanetto, privé, bevi, ha finito, hai speso 500 euro. Non va bene. Però quando la ragazza arriva, ti guarda, ti butta lontano e ti chiede, vuoi offrirmi davvero? Tu devi fare la cosa più naturale del mondo, ti alzi in piedi con fare un po' teatrale, batti e dici scusa, non ho soldi. Quel momento lei lo sente, tutte le ragazze lo sentono e tu nel giro di 5 secondi hai la stessa reputazione di Brumotti al parco di Rogoredo. Quindi, nessuno ti vuole, nessuno ci avvicinerà più, sto iniziando a mangiarmi le vocali, questo non è un buon segnale. Comunque siamo lì a sto cazzo di divanetto e arriva la prima ragazza da lontano, bella in lingerie, provocante, ci guarda, si avvicina e punta me. Io, che conosco bene il trucco, mi alzo alla Vittorio Gassman, non ho soldi, tutti mi guardano, la musica si spegne, ragazze, buon, perfetto. La ragazza però capisce che io non ho soldi, ma non se ne va. Cerca di capire se qualcuno all'interno della mia comitiva, come dire, sia circuibile più di me. E poi vede uno con le punte bionde, uno che sembra down e uno in carrozzina e forse è troppo anche per una donna navigata come lei. Si alza e se ne va. Pericolo scampato. Passano i minuti, noi beviamo, continuiamo a finire quei cazzo di avanzi di vino lasciati dai papponi di prima e si avvicina da lontano una seconda ragazza, ancora più bella, ancora più svestita e ancora più provocante di prima. E questa volta viene a puntare il mio amico Mirko, quello biondo con le punte. Lo guarda. Due moine, due carezze, e gli fa, scusa, ma mi puoi offrire da bere? E lui, che conosce benissimo il trucco, sa benissimo che deve dire, scusa, non ho soldi, è ubriaco come la merda, e quindi parafrasa la frase e dice, scusa, ma non ho contanti. E lei, che problema c'è? Ho il bancomat. E mentre lo dice, estrae da una piccolissima tasca che ha all'interno dello slippino, che si chiama figa, un POS acceso e funzionante. Questa è una cazzata, ve ne rendete conto. Però che bello pensare che uno possa avere un posto all'interno della figa. Quanto è surreale e grottesco. Niente, fa ridere solo me. Ma non c'è nessun problema. Comunque il primo fa pip pip e lo abbiamo perso. Siamo rimasti in 3. Oramai il livello di eccitazione davvero, ragazzi, è incredibile. Siamo a livelli di Harvey Weinstein, a livelli di Alberto Genovese quando faceva le feste a Terrazza Sentimento. Cioè, c'è gente che non la teniamo più. Soprattutto Ivan, che a questo punto è ingrifato come una bestia. rompe i coglioni, inizia a diventare molesto, non abbiamo soldi, rompe i coglioni, vuole fare un privé, al che io mi incazzo e gli dico, Ivan, porco Dio, hai rotto i coglioni, cioè basta, mi spieghi come cazzo facciamo a convincere una spogliarellista a fare un privé gratis con uno talmente brutto da sembrare un ritardato? E appena finisco la frase, Alberto, quello in carrozzina, dice, ma il fatto che Ivan non è ritardato, lo sappiamo solo noi. Parte la musica di Ocean's Eleven. La grande truffa può partire. Mi avvicino alla spogliarellista e le dico, ciao, so che sembra una situazione strana, ma lo vedi il mio amico là dietro? E lei, quale? Quello in carrozzina o quello ritardato? No, quello ritardato, è un ragazzo appunto ritardato, è il suo compleanno stasera, e in quanto ritardato, sai, non ha diritti in questo paese e vorrebbe tanto, sai, intrattenersi un pochino con te, avere qualche minuto di felicità, insomma, Lei alza le braccia, muove le braccia, però mi guarda e vedendomi l'unico normo dotato tra i tre, pensa che io sia una sorta di assistente sociale, volontario di una cooperativa, e quindi mi dice, vabbè, mi guarda, mi fa, guarda, io mi chiamo Irina, ho 23 anni, sono moldava, accetto, però fatemi la cortesia, venite anche voi dentro, perché sai, non mi sono mai spogliata con un ragazzo ritardato e quindi sono un po' inibita. Dico, no problem Irina. Torno indietro da Ivan e le dico, Ivan, guarda, tipa, pare ci stia, non chiedermi perché, ma pare ci stia, tu, tutto a posto, ce la fai, te la senti? E lui, yeah, yeah, yeah, yeah. Era il verso del ritardato, lo so. Comunque decide di seguirmi e entriamo dentro il privé. Ora signori, non so quanto voi conosciate esattamente come sono fatti i privé o quanto voi conosciate le regole dei night, ma i privé sono dei cubicoli di, credo, 4 metri quadrati, divanetto, divanetto, divanetto, luci molto soffuse, musica tendenzialmente a palla, la ragazza si spoglia, tu non la puoi toccare e soprattutto non ti puoi far toccare dalla ragazza. Mezz'oretta di solito dura 50 euro. Ribadisco, tu non ti puoi far toccare dalla ragazza. Ma se la ragazza pensa che tu sia ritardato, fa un'eccezione. E tempo 3 secondi, io mi trovo di fronte a sta ragazza moldava che sta segando il mio amico credendolo ritardato. E penso, quanto è triste la tua vita Andrea, dato che la tua prima cosa 3 è in compagnia di una spogliarellista moldava che sta segando un finto ritardato. Non è bella questa cosa, non può essere la tua prima esperienza. E allora io sono lì, guardo. E più intanto lei che sega, più piano piano si apre, perché comunque noi siamo ragazzi gentili, siamo ragazzi cortesi, e lei si apre e ci racconta di non chiamarsi davvero Irina, di non avere 23 anni e soprattutto di non essere moldava, ma di essere rumena, ma di preferire di dire di essere moldava a causa della reputazione da troie che hanno le rumene. E lo dice mentre sta facendo una sega a un finto ritardato. Capite che è strano? La ragazza più sega, più si apre ulteriormente, e non in senso, come dire, letterario, in senso proprio di cuore, e continua a parlarci della Moldavia, perché ci dice, cazzo, io però ho dei parenti in Moldavia, soprattutto a Chisinau, che è la capitale, che è la città più bella, la città più antica, quella più regale. Pensate, quella città che una volta, grazie ai suoi maestosi palazzi, si era guadagnata l'appellativo di città bianca, bianca come la sborra che esce in quel momento dal cazzo di Igor. Privé finito, signori. Il cazzo viene rimesso nella fondina. Usciamo dal privé. Andiamo in macchina. È tempo di bilanci. Mirko che guida. Alberto in carrozzina davanti con la carrozzina nel baule, perché quelli in carrozzina li puoi mettere solo davanti, altrimenti, boom, vanno contro le portelle. Io e quell'altro dietro. E durante il viaggio di ritorno, come sempre, è tempo di bilanci. Abbiamo Mirko che è molto contento del suo privé, anche se ha speso 400 euro, però molto felice, è il primo che è partito, si è fatto fare un bel seghino, contentissimo, un seghino costato 400 euro, ma comunque un bel seghino. C'è Ivan che è molto contento del suo privé, io che non sono per niente contento del mio privé, ma la vera sorpresa, la cosa strabiliante è stata vedere come Alberto, quello in carrozzina, fosse molto contento, forse il più contento di tutti del suo privé. È che quando ci dice questa cosa, noi le guardiamo e diciamo, scusami, ma come hai fatto a fare un privé che non avevi soldi? E lui, davanti, gira quel pezzettino di collo che gli permette di girare la sua malattia, si prende una pausa scenica e dice, ragazzi, scusate, fatemi capire, il finto handicappato si è fatto fare una sega, state a vedere che il vero handicappato non riusciva a farsi fare un bocchino? che sembra non avere una logica, ma nel momento in cui è una questione di porte, cioè se tu riesci a far passare un ritardo, poi quello dopo è come il secondo fratello, cioè vede dai genitori hanno fatto le cose con il primo e lui ha la porta spianata, quindi è un po' quel meccanismo lì. Guardo che ora sono e bevo intanto. Oh, vi ringrazio. Va bene, grazie, grazie Davide, pezzo di merda, a mamma. No, no, la conosciamo la mamma, non dico per quale motivo, ma la conosciamo in tanti. Vabbè. No, vabbè, capito, sulle vedove, quando ti fa comodo è vedova, perdonami, Vabbè. Ma lei, se vuole, no, ma davvero non è un problema. Cosa volevo dire? Aspetta. Ah, sì, niente, c'ho sta cosa qua che è un po' che non la dico, ma la dico. Ma sì, dai, vabbè, la dico, che la tengo per la fine di solito, ma oramai ho perso un tempo. E quindi la dico. Vabbè, vi racconto una roba, un episodio di molestia sessuale, bello. Dove sono coinvolto in prima persona, No, non è il tormentone, non lo faccio perché ho perso il tempo per farlo, quindi magari lo faccio fra 20 minuti. Che tristezza tutta sta cosa. Comunque, vi racconto di questa molestia sessuale, questo aneddoto, avvenimento, episodio di molestia sessuale che mi ha visto coinvolto in prima persona come vittima. Giusto lo specifico, perché comunque c'è una parte attiva e una parte passiva. Se uno non dice niente si può sempre lasciare una percentuale di dubbio, no? Ma qui nessuno ha detto niente, quindi vabbè, non c'è problema. Anche questo bellissimo aneddoto è avvenuto 20 anni fa. Un po' voi penserete, 20 anni fa sono successe le cose più emozionanti della tua vita. Non è così. Però comunque ve la faccio breve. 20 anni, quindi mi stavo iscrivendo all'università, ho fatto scienze della comunicazione a Parma, che è un po' un'università inutile, ma all'epoca ci credevamo perché erano i primi anni di corso, quindi sembrava che poi potessi fare il giornalista, invece poi non puoi fare niente, ma l'ho fatta lo stesso. E all'epoca avevo, come dire, la passione per la scrittura, volevo fare il giornalista. E tramite mio padre, che all'epoca aveva 60 anni, quindi una quarantina d'anni più di me, 38 anni più di me, mio padre, conosco questo suo amico giornalista, scrittore, che scrive dei romanzi un po' del cazzo, tipo romanzi storici, Valerio Massimo Manfredi un po' più sfigato, però comunque scrive. E sostanzialmente voleva iniziare a svecchiare il suo linguaggio e quindi iniziare a collaborare con qualcuno di più giovane. Mio padre ci presenta, facciamo una sorta di riunione, lui si trova bene, io mi trovo bene, iniziamo a scrivere assieme. Io gli mando delle cose, lui si manda delle cose, confrontiamo, attacchiamo, iniziamo, come dire, a dar forma a questo libro. Fin qua tutto bene, tutto, nessun problema. Tra l'altro il tipo gestiva anche una specie di museo all'interno di un'abbazia, quindi era un uomo di chiesa laico, poi capirete il perché lo dico. La mela non cade lontano dall'albero. Ma ad ogni modo, ad un certo punto questa persona mi dice: cazzo che bello, c'è una conferenza a Ferrara. Ferrara è a 3 ore da dove abitavamo noi all'epoca. Andiamo, ti ci porto e poi stiamo là, vediamo i relatori, mangiamo, poi torniamo indietro. Perfetto, mettiti giacca e cravatta, mi metto tutto punto, giacca e cravatta, salgo in macchina con lui. Andiamo a sta cazzo di conferenza, mangiamo, beviamo, ascoltiamo i relatori, torniamo indietro, a metà strada, più o meno quando manca un'oretta la strada del ritorno, lui dice un qualche cosa di paternalista, non ricordo cosa, e ad un certo punto mette la sua mano sulla mia gamba più interno coscia, no? Adagiandola per qualche secondo, quel secondo di troppo che ti fa dire: orco cane, che cazzo succede? Io però non dico niente, perché onestamente penso, ma che davvero? Lui non dice niente, toglie la mano dopo poco ed è abile a cambiare argomento. Arrivo a casa sano e salvo, nessuno dice più niente, non si va sull'argomento. Passa un po' di tempo, quindi non mi ricordo, 15-20 giorni, e ad un certo punto mi ricontatta e mi dice: guarda Andrea, ti devo vedere con urgenza. Dico: vediamoci con urgenza. E vado di nuovo in macchina da lui, sempre in macchina, che non so perché il molestatore ha come comfort zone la macchina, però siamo in macchina io e lui, e mi dice: guarda, mi trovo molto bene, non allude minimamente all'episodio delle volte precedenti, ma va sul discorso lavorativo, mi trovo molto bene a lavorare con te, scriviamo bene, scrivi bene, eccetera, eccetera, ma sai, io per poter andare avanti ho bisogno di sapere di potermi fidare di te ciecamente. E io dico: cazzo, lo capisco, ma vai tranquillo Roberto, ti puoi fidare di me ciecamente. E lui: ma io ho bisogno di una prova fiducia. E io: dimmi qual è la prova fiducia, Roberto. E lui: ho bisogno che mi fai un pompino. Strana prova fiducia, penso. Bizzarra. E gli dico, guarda Roberto, io decido di stare al gioco, io se vuoi anche la prova fiducia te la faccio anche, però capisci bene figlio mio, che prima di farti la prova fiducia devo sapere anche io di potermi fidare sulla fiducia. E lui, ti puoi fidare di me sulla fiducia. E io, ma come faccio a fidarmi sulla fiducia? E lui, fammi fare una prova fiducia. E io, ti faccio fare una prova fiducia. E lui, qual è la prova fiducia? E io, ho bisogno che ti fidi sulla fiducia. E lui, ma come faccio a fidarmi sulla fiducia se tu non fai la prova fiducia? E io, ma la mia prova fiducia consiste proprio nel fatto che tu ti fidi sulla fiducia. L'ho spiazzato. Sono andato avanti mezz'ora e alla fine non l'ho mica convinto a farmi fare un pompino. Che pomeriggio, eh? Adesso proprio una cosa che mi piace tantissimo, che la dico sempre. L'altro giorno stavo pensando un po' ai pedofili, che è una roba mia che ogni tanto... E ho fatto un po'... Ti ringrazio, pezzo di merda, io ti conosco, so dove abiti e ti vedo tutti i giorni. Comunque l'ho cambiata per te, hai capito? Ma spero, lo vedremo alla fine di questa esibizione. E no, stavo pensando un po' ai pedofili, perché mi piace pensarci ogni tanto. E mi sono reso conto che molti di loro, se noi togliamo il fatto che chiamano i bambini, non tutti, però sono delle persone abbastanza rispettabili. C'è anche molti stupratori, ma di base più i pedofili, perché hanno fatto quel passaggio in più. Mi rendo conto che adesso c'è un po' di gelo, perché anche i pedofili si chiamano i bambini, è una cosa brutta, nessuno ride, quindi c'è gente che si sta allacciando il giubbino per andarsene, ma lo so benissimo che l'avresti fatto comunque. Ma mi è utile cavalcare questa onda di no, non ci piacciono i pedofili. Però vi racconto una cosa, non so se avete Netflix tutti, oh, me ne vado, con i pedofili, no, con i bambini non si scherza. Accetto tutto, ma non i bambini. C'è questo bellissimo documentario su Netflix. Signorina, lei se di solito interviene, stasera la vedo particolarmente pacata. Ma sì, alle A al posto delle O, vabbè, ma quelle 20 minuti. Sto anche scorreggiando, ma te non te ne accorgi. Poi sale Valerio e si mischia al suo odore da maschio. Sì. No, comunque c'è questo bellissimo... Scusatemi, voi due sempre insieme, sì. Vi state separando, la serata sta rovinando il vostro amore. Niente, oh, porfa, io chiedo, non vorrei vedere una coppia bella che poi se ne va distrutta. Ah, no, ho capito, però cioè, non è che andiamo, chiediamo tutti allora. Allora andiamola dietro e chiediamo, che cazzo vuol dire? Comunque c'è questo bellissimo documentario su Netflix. Netflix, che io ho un problema con le S, vengo da Mantova ma siamo quasi emiliani, quindi abbiamo un problema con la S sibilina, che parla di questa persona che si chiama Jimmy Savile. Era un tipo che è nato, mi sembra, nel 1926-25, una cosa del genere, ed è nato a Leeds, in Inghilterra, ed è nato da questa famiglia molto povera, inglese, della classica working class era, cioè, quindi quelle famiglie dove il papà faceva il minatore, il nonno faceva il minatore, il bisnonno il minatore, e a sto cazzo di Jimmy Savile 9 su 10 sarebbe toccato da fare il minatore. Ma sto ragazzo capisce ben presto che non vuole fare il minatore e ha la passione per la radio. Era l'epoca in cui c'erano le prime radio indipendenti in Inghilterra, quelle che appunto mettevano la musica figa, quindi non era la radio RDS, Radio Italia di adesso, era quando la radio aveva ancora, come dire, un senso culturale anche, e anche di rottura, no? E quindi questo cazzo di Jimmy Savile si mette in testa e dice: io voglio fare il presentatore radiofonico. Boom, si mette, lo fa, primo, due, fa per 5 anni, vince il premio di miglior presentatore radiofonico d'Inghilterra, conduce un sacco di programmi e pensate che aveva tipo milioni di ascoltatori settimanali, cioè quindi davvero è una rockstar, no? Solo che non si accontenta, perché capisce che può fare di più, è un grande comunicatore ed arriva alla televisione, e che per lui è la manna dal cielo, perché lui girava sempre con queste tute di acetato, cioè quindi rosse, e aveva questi capelli, questo caschetto biondo lungo, era una sorta di Enzo Paolo Turchi sotto LSD, cioè come fisionomia, sempre... così, un po' tipo l'urlo di Munch, un po' asciutto. Quindi quando è arrivata la televisione, la sua immagine molto figa, paradossalmente, gli ha dato, come dire, ancora più popolarità. Quindi si mette in testa di condurre programmi televisivi e fa Top of the Pop, che era un programma storico della TV, della BBC inglese, che poi l'abbiamo fatto anche in Italia con scarso successo. Quindi appunto diventa un grandissimo presentatore, conosciuto da tantissime persone, da milioni di inglesi, programma seguiti da un sacco di gente, ha tantissimo potere e conosce un sacco di persone famose, cioè amico della Thatcher, amico dei Reali, amico dei Beatles, amico di un sacco di gente famosa, e con tutto quel potere, con tutta quella popolarità e con tutti quei soldi si mette a fare anche un sacco di beneficenza, cioè costruisce reparti di ospedali, reparti psichiatrici, fa per 30 anni il portantino volontario nelle ambulanze, quindi succedono gli incidenti, lui andava a fare il portantino e soprattutto, grande passione, organizza delle maratone, tantissime maratone per raccogliere soldi appunto da dare in queste strutture. Quindi praticamente fa un sacco di beneficenza, conosciuto da tutti, l'idolo degli inglesi perché è proprio quello che dalla working class hero sale dalle stalle alle stelle. Perché vi sto raccontando sta cosa? Perché poi sta a vedere che sto qua mica molestato 500 bambini, non uno, non due, 500, sono tanti 500, cosa pensi che facessi in ospedale? Per quello ti dico, se tu ti dimentichi di sta cosa qua, sto signore qua era una gran brava persona, ne ha fatta di roba bella, facciamolo, perché uno può anche avere due vite separate, cioè non è che, allora lo fai o non lo fai sto applauso? No, non tu, lei! Basta! Adesso vi parlo della mia vita privata e poi me ne vado. Sì, sì, vattene. Guarda, ho fatto già mezz'ora. Bene, oh, che bello. No, no, adesso ti racconto. Vabbè, le classiche robe, sono fidanzato. Che triste, no. Vabbè, sono fidanzato da 7 anni con una ragazza maggiorenne. Me lo dico perché, appena avendo parlato di pedofili, non si sa mai. E una ragazza bella, molto bella, almeno a me piace, molto particolare, ci amiamo tanto, però litighiamo molto, molto, molto, molto, perché siamo fondamentalmente molto diversi, giorno, notte, cane, gatto, proprio uno l'opposto all'altro, e non so se voi credete nei segni zodiacali, però anche da un punto di vista molto degli astri era facile intuirlo, cioè io sono Scorpione, lei è testa di cazzo, le cose non collimano. No, è una ragazza che ha molti pregi, davvero, è molto colta, molto intelligente, parla 3-4 lingue, le piace viaggiare, quindi ha tutta una serie di valori. Scusi, ma il mercato, allora un etto di crudo? 3 o 4. No, 3 o 4, non mi ricordo, sa bene 3, poi ne sa bene l'inglese, il francese, il portoghese lo parlucchia, lo spagnolo lo parlucchia, quindi dai, 2. Allora, vabbè, sì, l'italiano non lo conto, scusate, non mi ricordo, Gianfranco Funari, dai, tribuna politica. Quanto costa un litro di latte? La merda. Grazie. Adesso vi faccio le imitazioni del ragazzo che viene qua a imitare Bastianich. Ciao, sono Gio Bastianich. Adesso vi faccio l'imitazione del ragazzo che viene a imitare qua Carlo Cracco. Ciao, sono Carlo Cracco. No, perché state ridendo, vuol dire che è un pezzo che funziona, quindi non lo decido io, lo decide il pubblico. Sì, e poi viene questa settimana prossima, viene qua e fa tutte le imitazioni, fa adesso faccio Gianluca Grillo, faccio Blanco e inizia a spaccare tutto qua. Faccio Gianluca Grignani, inizia a fare, ah, lo sento. Adesso non so più, ho visto quello. Volevo dire qualcosa su Rosa Chemical, ma non mi viene in mente niente. Stavo dicendo, vabbè, sì, la mia ragazza, ok, vuol dire che la mia ragazza è molto femminista, molto, molto, molto, molto, e mi rompe il cazzo tanto, per farmi capire, io sono un po' un uomo medio su certe cose, come avrete intuito da stasera. Mi rompe molto il cazzo appunto sulla questione delle donne, il fatto che ci siano ancora molte, molte, forse troppe disparità tra uomo e donna, cioè disparità da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista lavorativo, un sacco di disparità. La ragazza che non mi ha cagato fino adesso, quando sente disparità tra uomo e donna, si è illuminata, ha due fari negli occhi, ha toccato l'argomento giusto. Allora ascolta, sto dicendo delle cose per te, baby. non mi ricordo più. Sei andata Piazza Firenze, Polizia di Stato denuncia 3 minuti al gabbio. A parte scherzi, mi fa una testa così e mi fa capire per farmi ste cazzo di cose. Allora vedo che i ragazzi qua non capiscono e quindi do l'ultima statistica. Tu che sei parente suo e sei adulto, non li sai questi dati, lo vedo dalla faccia che non li sai, te li do questi dati. Tu pensa, cioè tu pensa come siamo indietro in Italia, se anche nel 2022, dai, cito quello del 2022, ma se anche nel 2022 in un rapporto di coppia 7 donne su 10 rompono il cazzo, ma ti rendi conto? E le altre 3 dove sono? Nord Europa? Il problema di fare ste battute di merda è che molta gente ci crede, no? Quindi l'ho fatta una sera in un locale a Milano, faccio sta battuta, tendenzialmente la gente ride, vado al bar a bere qualcosa, si avvicinano 3 ragazzi sui 20 anni, non proprio i più svegli del locale, che mi fanno bella bro, bella fra, ci è piaciuto molto, molto quello che hai detto, molto quello che devi dire, soprattutto la parte sulle donne, perché è esattamente quello che pensiamo e diciamo noi. Che io faccio un passo indietro, alzo le mani, dico: fra, voi non dovete proprio prendere sul serio tutto quello che io dico, cioè io non dico davvero quello che penso, cioè io non penso che 7 donne su 10 rompano il cazzo, 10 donne su 10 rompono il cazzo. Questa è facile, questa è un po'... Sì, però mi fa ridere, no? Dire che le donne rompono i coglioni, no? Che cazzo ce ne frega. Io adesso avrei anche finito perché... Ma... No, sto pensando se chiuderla più in salita, ma non lo so. No, dico l'ultima roba che a me fa ridere, poi se non mi fa ridere andate a fare in culo. È sempre legato alla pedofilia, chiudo, cioè, no, non parlo, no, no, aspetta, no, no, mi serve la coda, non parlerò più di bambini che chiamano con nessuno. Ritornando con i pedofili, ah, cazzo, hai tante cose belle, hai un gran bel carattere, fai beneficenza, sei amato a tutti, però c'hai sto cazzo di difetto che ti piace il culetto, è una brutta roba, me ne rendo conto, però pensate un attimo ad astrarvi e dire, cazzo, che brutto meccanismo quello per cui tu hai tantissimi pregi, proprio hai il 99% del tuo corpo fatto di pregi e un difetto di merda, e tutti dicono, pezzo di merda, ti vedono merda. Cioè, è un meccanismo, cazzo, brutto, subdolo. Cioè, facciamo allora che valga anche il contrario, no? Cioè, tu hai tanti difetti, 99% di difetti, ma un pregio universalmente riconosciuto da tutti e vieni visto bene. Cioè, faccio un esempio, Hitler, uomo di merda, ma signori, ma che caffè che fa? Non ha un senso, però vedi che dici, perché? È quello il bello. No, però, no, allora niente, allora andiamo via. Signori, no, la signorina ha detto no, la serata è finita, non è piaciuta la battuta alla ragazza, spiace, cosa ne faremo? Nero! È di Alberto, non è mia. È giusto il braccio, no? Sì. Va bene, signori, io ho fatto la mia mezz'oretta, sono stato molto contento di esibirmi di fronte ad amici, fratelli, compari, sconosciuti con cui... Grazie. E sono molto felice di chiamare sul campo il Rocky Balboa della comicità di Piacenza. Un uomo, una via di mezzo tra un uomo e un lambrusco, un pizzeria faseo ambulante. Signore e signori, Valerio Airò Rockelmeyer! Andrea Fadenti! Lascia stare, lascia stare! Sono già passati i problemi! Cosa faceva tuo nonno in Germania? Quelli facevano tanti tedeschi al tempo! Comunque ragazzi, devo dire... Posso dirvi che questa è una delle situazioni più belle in cui io mi sia mai esibito. Dici meglio pochi ma buoni, qua siamo pochi ma stronzi. Ho visto più entusiasmo in riunioni di condominio. E vabbè, cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto che la facciamo, andiamo, vabbè. Cosa volete vi racconto? Cosa vi dico? Allora, io son fiero, devo dire, sono fiero, della forma fisica che porto in giro sui palcoscenici. Sono molto fiero, ragazzi, molto fiero, anche se ho un passato scuro, cioè io in passato sono stato magro, poi con... Tranquillo, perché poi con un'alimentazione a base di hamburger, kebab, patatine, birra, abbinata a un'attività fisica degna di Michael Schumacher dopo l'incidente, è venuto fuori questo bello schifo qua. Ora però io voglio tornare magro. Eh sì. No, io voglio tornare magro. Sai perché? Perché? Ti direi, perché vuoi star meglio di salute? Perché vuoi star meglio con te stesso? Perché vuoi essere più attraente? No. Io voglio tornare magro perché voglio poter tornare a dare del ciccione di merda ai ciccioni. Era così bello prima quando vedevo un bello obeso che passava per strada e io dicevo ai miei amici: guardate quello lì, è un ciccione di merda! E tutti ridevano, tutti erano felici. E adesso no, adesso se passa un obeso io dico: quello è un ciccione di merda, e i miei amici mi guardano e mi dicono: ma ti sei visto te? Cosa devo dire? È vero. Quindi voglio tornare magro, e per tornare magro mi sono iscritto in palestra. Ma prima di iscrivermi in palestra ho fatto il giorno di prova in svariati istituti per capire quale fosse la palestra più adatta alle mie esigenze. Le mie esigenze sono due: che la palestra costi poco e che sia piena di figa, che è la mia ricompensa. Dico: vabbè, vado lì, sudo, fatico, ma almeno vedo un sacco di bei culi. Ora, la cosa che io ho scoperto facendo il giorno di prova in svariate palestre di Piacenza è che la figa è direttamente proporzionale al costo della palestra. Più è costosa la palestra, più figa c'è. Siccome io mi voglio male, sono andato a fare il giorno di prova nella palestra più costosa di tutta Piacenza, che era piena di figa. Corpi clamorosi, culi maestosi. E io nel vedere tutta questa figa mi sono incazzato come una bestia, perché ho pensato: ma io sono 30 anni che vivo a Piacenza, da dove cazzo spunta tutta sta figa? E perché dovrebbe venire in palestra a Piacenza? Abbiamo una palestra della Madonna. No, in realtà la soluzione è semplice, ci ho pensato, e il discorso è questo: che io ero nella palestra più costosa di tutta Piacenza, quindi lì c'era la creme della società piacentina, e io quando esco a Piacenza il posto che frequento più spesso è un locale che viene simpaticamente soprannominato il Merdarolo. È plausibile che i nostri destini non si siano mai incrociati. Comunque alla fine mi sono iscritto in l'unica palestra che potevo permettermi, che era ovviamente la più scrausa possibile, e per farvi capire il livello, in quella palestra le fighe erano due. Una era una vecchia e l'altra sembrava mio zio. Un giorno però è entrata in palestra una figa clamorosa, una figa da palestra costosa. E ho detto: cazzo ci fa qua? Poi mi sono dato una risposta, ho detto: beh, lei, se fosse in una palestra costosa, sarebbe una delle tante, sarebbe una figa mediocre, mentre qua è la numero uno, tutti gli occhi sono su di lei. Cioè, lei è come quel calciatore che preferisce fare la star alla Sampdoria piuttosto che la riserva al Real Madrid. Lei è l'Antonio Cassano delle fighe. Sono andato a dirglielo. Ho detto: ciao, sei troppo bella per essere in questa palestra. Dai, ma non andare da quelle che conosci, però. Bona! Allora, scusa, la volta che tu salirai su questo palcoscenico, cosa che ti stiamo chiedendo in 30 da un anno e mezzo, no, ti farò esibire perché farei schifo da solo, tranquillo. Dicevo, sei troppo bella per questa palestra. Oh, grazie. Aspetta. Era una figa da palestra costosa. Sai perché te non sta... Sai perché te non stai capendo la battuta e perché meriti questa mia invasione fisica? Perché mentre io stavo dicendo la premessa di questa battuta, te chiacchieravi! Ha ragione! Bravo! Io sono multitasking, sono donna! Ma non capisco le battute, non so guidare! Io no, io non so guidare. No, io ho la patente, ma non l'ho mai usata. Mai usata perché la tipa che mi ha dato la patente mi ha detto: guarda, Capito? Ma se lei risponde vuol dire che ci piace che io venga qui. Lei è felice. Assolutamente. La tipa che mi ha dato la patente mi ha detto, allora, cioè, il pressing fisico solo se iniziate a essere molto fisiche. Ho visto molti video iniziare così, si chiamavano food job. Mi sto arrapando un pochino nel parlare. Oh, ma ragazzi, ma il problema sono io o sono loro che si chiamano gli insulti maschilisti? È la società o è la vittima? Io dico che è la vittima. Bravo. Grazie. A che punto eravamo arrivati? Prima che te mi distraessi. Vabbè, ho capito, ma se vi devo raccontare proprio tutto. E poi lei me le ha interrotte tutte. Vabbè, dai, vi parlo di un'altra cosa adesso. Sono rotti i coglioni. Adesso faccio lo spettacolo dell'Abramovic. Io, allora, voi non sapete che io nasco come artista. Io sono il figlio dell'Abramovic e l'altro, quello che si beccano, che fanno quella roba romanticissima. Come si chiamava? Julianov? Vabbè, l'ex marito. Hai visto in che società viviamo? Noi viviamo in una società in cui l'uomo viene oggettificato. Cioè lui non è il grande artista, lui è il marito dell'Abramovic. Che vergogna! Viviamo in una società che non dà spazio all'uomo e l'exalge promuove il maschilismo. E io che sono volto dell'exalge vi dico maltrattate le vostre donne. Siamo in diretta in radio? Ma cosa stavo dicendo prima? Ah, sì. Perché sei questa porca miseria, mi fastidisci. Ah, pensavo che avessi iniziato a fare il comico. Te sei quella a cui avevo detto che eri troppo pura come anima per essere socia di questo posto di esseri malvagi. E ora si capisce tutto. Questo era il colpo di scena. Il colpo di scena è citazione a i soliti sospetti. Lei è la Kaiser Sosa dell'Exalge. Comunque, dicevamo, vado dalla tipa e le dico, ciao, sei bellissima, sei troppo bella per questa palestra. Oh, grazie, aspetta. Te sei come il calciatore che preferisce fare la star al Real Madrid piuttosto che la riserva alla Sampdoria. Te sei l'Antonio Cassano delle fighe. Lei mi ha guardato e mi ha detto, oh, te non scopri molto, vero? Vabbè, ragazzi, era meglio se cazzeggiavamo. Io vi dico, questa è una serata molto brutta che rende onore al nome della serata, brutte persone, ma non è così tanto brutto, potremmo fare di peggio. Perché le mie serate preferite sono le serate brutte, le serate sbagliate. Per dirvi, quali sono le serate sbagliate? Le serate sbagliate sono quelle in cui tu hai un repertorio in cui parli di stupri. Scusami, non volevo. Inneggia Hitler, chiedi il culo alle tue amiche e devi esibirti alla festa del santo patrono di Corte Maggiore, provincia di Piacenza. Come ci sono finito alla festa del santo patrono di Corte Maggiore, provincia di Piacenza? Pomeriggio mi arriva una chiamata da un numero che non conosco, io rispondo e faccio pronto, e dall'altra parte del telefono mi fanno ciao, noi non ci conosciamo ma io ho sentito parlare bene di te. Mi hanno detto che sei bravo a dire le cazzate. In che senso? Ma sì, fai il comico, dici le cazzate. Sì, insomma, più o meno. Mi dica, quanto vuoi per venire a dire 5 minuti di cazzate alla festa del santo patrono di Corte Maggiore? Solo 5 minuti? Sì, 5 minuti perché poi c'è la band che suona. Quanto vuoi per 5 minuti di cazzate? 500! Mi spiace, 500 non ci posso arrivare, al massimo posso darti 50 euro un piatto di tortelli. Va bene, andata, ci sto. Arrivo alla festa del santo patrono di Corte Maggiore, mi trovo nella situazione peggiore possibile per fare qualsiasi forma di spettacolo, perché sono sul palco, quello alto, grande, largo, da band. Alla destra del palcoscenico c'è un gioco bimbi, quindi allegri bambini che ridono, scherzano, si divertono. E la prima delle lunghe panche in legno classica da festa di paese è ad almeno 10 metri di distanza dal palco. Seduti sulle panche in legno, anziani signori che mangiano i tortelli. Dritto di fronte a me, la basilica di Corte Maggiore. Ricordarmi che come sempre, ma in particolare quella sera, Gesù mi osserva. Ora, la serata viene introdotta da un presentatore che per l'abilità che aveva sul palcoscenico era molto probabilmente il falegname del paese. Non se lo incula nessuno. Mi chiama sul palco. Arrivo sul palco, provo a fare un paio di battute, non mi incula nessuno. Gli anziani signori continuano a mangiare i loro tortelli. A che mi dico, vabbè, qua ci vuole contatto. Qua ci vuole mestiere. Io devo avere empatia in questo momento. E quindi dico agli anziani signori, visto che la festa è il santo patrono, io ci tengo a dirvi che bestemmio molto. Gli anziani signori smettono di mangiare i tortelli e iniziano a fischiarmi. Ma sono distanti, non si capisce se sono fischi di approvazione o di disapprovazione. Io nel dubbio ringrazio, faccio grazie, grazie, siete voi il mio pubblico. E parto con un mio vecchio pezzo che si chiama Elogio della bestemmia. Gli anziani signori continuano a fischiarmi. Quando a un certo punto, dall'ultima delle panche in legno, quindi da almeno 30 metri di distanza, non si alza una signora vestita in azzurro che inizia una lunga, solenne camminata verso il palco. È evidente, le hanno dato la fascia di capitano. Mi arriva sotto al palco, mi guarda e mi dice «Basta, tu la devi smettere, stai dicendo un sacco di parolacce e qui ci sono i bambini e in più stai anche offendendo il Signore». E che io la guardo e gli faccio «Signora, mi pagano per farlo. Sono a tanto così dal linciaggio». Con la coda dell'occhio vedo il presentatore che sta per tornare sul palco per interrompermi, al che prima che mi interrompa lui, chiudo io dicendo «Grazie, siete stati un pubblico meraviglioso! Grazie, Castel San Giovanni!» che è il paese rivale. Scendo dal palco, tranquillo, tranquillo, sereno, sereno, perché tanto sono vecchi, sono distanti più di 10 metri, se anche vogliono venire a menarmi, muoiono prima di arrivare. Come scendo dal palco mi trovo davanti il sindaco di Corte Maggiore. Sindaco che non ha goduto un cazzo di quello che ho fatto. E nello specifico mi dice, tu non lo dovevi dire che noi stasera ti paghiamo. Perché la gente adesso penserà, ecco come vengono spesi i soldi dei contribuenti. E non mi voteranno più. In quel momento, pensando al fatto che il sindaco era della Lega, ho realizzato di essere un eroe. Buona cena, pezzo di merda. No, volevo metterlo così, pensavo che magari non si notasse. Perché ti piace? È un argomento tabù! Dimmi, dimmi. Ragazzi, mi sto rappando, vado via. Io sono agilissimo. Io sono... Domani per la finale, vero? Sei a Sanremo. Ah, Italia's Got Talent. Ah, Sanremo. Allora, te con questa tua pelata mi ipnotizzi. Sai che te se l'hai appena rasata stasera? Avete mai accarezzato la testa di un pelato con la testa rasata di serata stessa? Hai mai accarezzato? Provaci, per favore. Quanto è bello! Un applauso ai pelati! Comunque, il giorno, cioè nelle settimane successive alla serata di Corte Maggiore, questo post che io ho fatto in cui dico che siccome il sindaco era della Lega, io sono un eroe, gira, viene eletto, viene condiviso e viene eletto da qualcuno e si fa un'idea forse un po' sbagliata di me. Perché dopo qualche settimana mi arriva una chiamata da un altro numero che non conoscevo, io rispondo, dall'altra parte del telefono mi fanno ciao, noi non ci conosciamo ma io ho sentito parlare bene di te. Fammi indovinare, ti hanno detto che sono bravo a dire le cazzate. No, io ho saputo quello che è successo a Corte Maggiore. Te non dici le cazzate, te sei un comico impegnato. Sì. Ti hai voluto lanciare un messaggio a Corte Maggiore? Sì! Ti hai voluto protestare contro una politica xenofoba e razzista? Sì! Ti va di venire a fare il tuo spettacolo al Circolo Arci che gestisco a Osnago? Va bene, ci sto! Dove cazzo è Osnago? È un paesino in provincia di Lecco, non è molto famoso. Quanto vuoi per fare il tuo spettacolo? Dipende se ci sono i tortelli. Arrivo ad Osnago! E trovo una situazione che a livello anagrafico non è troppo differente. Sono tutti anziani. L'unico gruppo di giovani è un gruppo di ragazze che sta al bancone, beve birra e se ne sbatte i coglioni dello spettacolo. Ora io inizio lo spettacolo davanti a questi signori che da me si aspettano boh, Benigni quando va in Rai e difende la Costituzione e parla di amore. Inizio lo spettacolo davanti a queste persone con il pezzo in cui chiedo il culo alla mia amica, che è tratto da una storia vera. Ma allora non si può far perché non si può far perché è sotto denuncia. Ci sono tanti tabù, ci sono tanti tabù. Comunque è tratto da una storia vera, ma c'era un motivo, nel senso che lei era andata a vivere fuori per motivi di studio. Io non la vedevo più e quindi ogni tanto, ogni 2-3 mesi, le mandavo questo messaggino su WhatsApp con scritto «Ciao, come stai? È un po' che non ci si sente, spero tutto bene». Me lo dai il culo. Questo per mantenere il rapporto, e anche perché chi lo sa come funziona la mente dell'essere umano. Cioè magari questa frase «me lo dai il culo» ripetuta una volta ogni 2-3 mesi le entra nel subconscio e lei una mattina fra 10 anni si sveglierà dicendo «devo dare il culo a Valerio». Meglio non lasciare nulla di intentato, dico io. Comunque, appunto, questo pezzo non lo posso proseguire perché è sotto denuncia. Non è stato recepito benissimo dai signori che si aspettavano da me, Benigni in Rai, e qualche risatina qui e lì, ma insomma. Proseguo facendo un paio di battute misogine gratuite, che comunque stanno sempre bene ovunque, e poi inizio un pezzo in cui prendo in giro le femministe. Come inizio questo pezzo, una signora in prima fila, al primo tavolo, si alza e mi urla «Fai schifo, sei un porco maschilista!» E come si alza la signora, le ragazze che stavano al bancone, bevevano birra e se ne sbattevano i coglioni dello spettacolo, si uniscono e fanno «È vero, è un porco maschilista! Noi dobbiamo boicottarlo! Noi ce ne andiamo!» E che le guardo e faccio «Vabbè, non siete tutta sta perdita!» Non ascoltavate. Cosa stai dicendo? Che noi in quanto donne non contiamo? No, sto dicendo che non ascoltavate, non che non contate. Lo vedete che voi in quanto donne non capite mai un cazzo? La signora si rialza e urla, ti devi vergognare te chi ti ci ha messo su questo palco, io me ne vado, prende, se ne va. Le ragazze se ne vanno insieme alla signora, io commento la loro uscita di scena dicendo vabbè, tanto sono donne, cosa devono capire di comicità. A quest'altro mio commento altre signore si alzano e se ne vanno portandosi via i compagni. Fatto sta che da che io avevo davanti una settantina di persone mi trovo con 10 stronzi. Ora, vedo all'ingresso del locale il gestore che mi aveva chiamato. E i nostri sguardi si incrociano e io nei suoi occhi leggo tutta la tristezza, la delusione che lui prova nei miei confronti, perché lui si era fidato di me. Ma io, nonostante la tristezza e la delusione che leggo nei suoi occhi, non mi faccio impietosire, anzi, tiro fuori il carico da 90 e dico ai restanti 10 stronzi: vabbè, siamo partiti con il piede sbagliato. Colpa mia, colpa mia. Facciamo così, ricominciando da zero. Conosciamoci meglio, facciamo un sondaggio ad alzata di mano. A quanti qui sta simpatico Adolf Hitler? La cosa che io non potevo sapere era che andandosene via le femministe, quelli che rimanevano erano i matti del paese. Che alzano tutti la mano! Anche io dico, ma sì, dai, in fondo cosa ha fatto di male? Ha ucciso 6 milioni di ebrei. Ma chi è che non sta su cazzo gli ebrei? È vero, sono delle merde, devo morire! Ed ero in un arci. Proseguo un po', preso bene, a inneggiare al Führer, fino a che a un certo punto non entra in sala, e vi giuro su Dio che è vero, un matto che è uguale identico a Hitler. Arriva e io lo guardo e gli faccio: cazzo Hitler, sei te? Ma dove eri? Ti hanno cercato in Argentina, dove eri? Lui mi guarda e mi fa: ma veramente io rovi mercate. E se ci pensiamo bene, nessuno ha mai cercato Hitler a Vimercate. A una certa mi rompo i coglioni di inneggiare al Führer. Quindi dico, vabbè, dai. Sono annoiato, quindi ho detto, oh, finito, grazie, simpaticissimo. Figa, i matti mi fanno, no, bis, bis. E faccio, va bene, bis. Viva Hitler, bravo! E ho ricevuto la più grossa standing ovation che abbia mai ricevuto da quando faccio il comico. Appoggio il microfono. Mamma mia, buona! Mamma mia, che clac che mi sono portato. Questa devi fare il radio. Perché ti chiami Rockelbeyer? Bastardo! Appoggio il microfono all'asta, saluto e dico grazie Circolo Arci, asta Vittoria sempre, siete il locale fascista più bello in cui io mi sia mai esibito. Scendo dal palco e come scendo dal palco mi viene incontro il gestore che ha una faccia scioccata e mi fa: cosa hai detto tu? Che noi siamo un locale fascista? Io faccio, sì, sono un comico, si scherza! Però mi sa che non l'ha presa bene perché non mi ha mai più richiamato nel suo locale fascista del cazzo. È andata così, è andata così. Allora, adesso vi racconto un'ultima storia, dai. Poi andiamo a fare in culo. Sì, sì, sì. Buona! Buona! È il tuo momento! Buona! Buona! Buona! Guardatelo pure, guardatelo tutti! Ciao! Grande! Dai, che te Peter! Oh, abbiamo detto che si faceva schifo stasera. Ci stiamo impegnando. No, no, ma Sanremo, ma chi l'ha mai guardato? Ma chi l'ha mai guardato Sanremo? Te hai mai guardato Sanremo? C'è gente che guarda Sanremo qui. Ma perché vi guardate Sanremo? Cioè io mi becco i meme dopo, dico, ah, vabbè, buco ma... Eh? Me lo recupero. Ma no, mi recupero le parti importanti, quelle che dicono, ah, ho fatto ridere, ma vado a vedere. Adesso ragazzi io vi faccio un PowerPoint in cui vi spiego perché guardare Sanremo è una cosa inutile. Sentite questo, è un silenzio. È un silenzio che in uno spettacolo non dovrebbe esserci, perché ammazza un po' tutto, quindi sembra che stia andando tutto male. E doveva essere il tempo in cui io trovassi il pezzo, che adesso ho trovato, che doveva essere gestito. Ma da chi doveva essere gestito questo? Ah, da me. E niente, è andato. Allora, ragazzi, vi racconto l'ultima storia. L'ultima storia, poi andiamo a fare in culo. Te devi stare zitto, ma hai rotto i coglioni. Non ti picchio solo perché sei molto abbronzato e secondo me c'hai una lama. Exalge promuove la comicità razzista. Allora... Questa è una storia dei buoni sentimenti, perché periodo natalizio porta i valori di bontà, umana comprensione del prossimo. Praticamente 6 anni fa io e i miei 2 amici da viaggio, che chiameremo Marx e il Mola perché si chiamano così, dovevamo decidere dove passare Capodanno. Le ipotesi erano varie: Londra, Berlino, Parigi. A me non convincevano tanto, ho detto Mola, Marx, Londra, Berlino, Parigi, ci vanno tutti. Facciamo qualcosa di veramente alternativo. Facciamo Capodanno in Molise. E i miei amici, che non sono esattamente dei premi Nobel, mi hanno risposto, ah cazzo sì, ma sai che ci sta. E quindi siamo partiti verso questo viaggio, che non aveva una meta ben definita, perché la nostra meta era un indirizzo inserito nel GPS che corrispondeva a un bed and breakfast, che io avevo trovato scrivendo su Google bed and breakfast Molise. Noi partiamo per il nostro viaggio, avevamo già con noi una buona dose di spirito natalizio, perché portavamo un poster gigantesco, meraviglioso, di Gesù Cristo in Technicolor, che... era stato vinto a un cenone. Durante il viaggio facciamo delle tappe intermedie, ci fermiamo a Ravenna, la visitiamo, città molto carina. Ne approfittiamo anche a Ravenna per far benedire il Gesù Cristo in Technicolor nel Duomo. Prete commosso nel vedere dei ragazzi giovani così tanto devoti. Ripartiamo e facciamo un'altra tappa di intermezzo, ci fermiamo a Pesaro, lì spezziamo proprio il viaggio in due, ci prendiamo un hotel, passiamo la serata lì, mangiamo la pizza lì. Volevamo visitare anche Pesaro, solamente Pesaro è una città del cazzo, non c'è nulla. L'unica attrazione che c'è a Pesaro è un pomodoro d'oro gigante. È una città talmente tanto del cazzo che a un certo punto, dopo aver mangiato la pizza, abbiamo deciso di andare nella piazza principale per cercare di vedere se c'era un po' di movimento. E arrivati nella piazza principale, la troviamo completamente deserta, eccetto per una coppia che stava ammirando il presepe sotto l'albero di Natale. E non si capisce bene perché lo stesse ammirando, perché era un presepe che faceva schifo. Era un presepe veramente fatto, sembrava fatto con le sorprese degli ovetti Kinder, povero, piccolino, misero. Era un presepe talmente povero che a un certo punto a me è venuto un dubbio. Ho detto, Mola, Marx, ma secondo voi le statuine sono incollate? No, perché non c'è recinzione, potremmo allungare la mano e portarci a casa Gesù Bambino come souvenir. Marx, esperto in furti, mi risponde, boh, non lo so, proviamo. E quindi organizziamo il piano, il Mola che è alto, grosso, sa picchiare, fa il palo. Io e Marx ci dirigiamo verso il presepe, io con il compito di distrarre la coppia e Marx, esperto in furti, con il compito di rubare Gesù Bambino. Arrivo alle spalle della coppia e faccio... Salve! Si girano un po' spaventati. Io faccio, no, tranquilli, è Natale, quindi volevo deliziarvi con una canzone natalizia. Oh, wish you Merry Christmas. Oh, wish you Merry Christmas. Oh, wish you Merry Christmas and a Happy New Year. La coppia era visibilmente in imbarazzo nei miei confronti. Do uno sguardo a Max, Max mi fa... E quindi scappiamo a gambe levate con il nostro Gesù bambino come souvenir e siamo felici e siamo contenti. Il giorno dopo ripartiamo, arriviamo finalmente alla nostra meta, quella inserita nel GPS, e una volta arrivati lì scopriamo che non siamo in Molise. Perché a quanto pare, se tu scrivi su Google Bed and Breakfast Molise, il primo risultato è un Bed and Breakfast in Abruzzo. A conferma nella leggenda che il Molise non esiste. Comunque noi non ci siamo fatti scoraggiare, abbiamo passato il Capodanno con gli autoctoni abruzzesi che ci hanno offerto da bere, da mangiare, ci siamo divertiti ed è stato un Capodanno meraviglioso. Grazie. Una volta ritornati a Piacenza, siamo venuti a conoscenza del fatto che il quotidiano online viverepesaro.it ci aveva dedicato un articolo. E stasera ve lo voglio leggere. Sottratto il bambin Gesù dal presepe della piazza. Titolo. Svolgimento. Questa notte sconosciuti hanno asportato la statuina di Gesù bambino dal presepe ubicato sotto l'albero di Natale in Piazza del Popolo. Il bambin Gesù si è involato. Sarà tornato alla casa madre? Sarà stato sottratto da un povero di spirito? Sarà stato sequestrato da chi crede ad altro o non crede affatto? Comunque, un gesto esecrabile. Inutile dirvi che io, Max e il Mole eravamo felicissimi. Anche perché abbiamo scoperto che a Pesaro non ci sono nemmeno i giornalisti, perché come cazzo è scritto questo articolo? Ma la cosa più bella non è l'articolo in sé. La cosa più bella... e le condivisioni e le discussioni che ha generato. E ora vi voglio raccontare la discussione più bella. Gianfranco condivide l'articolo e scrive: facciamo che se lo beccano mettono le sue palle al posto del bambinello. Così, per fare una bravata anche noi. Rita risponde: Gianfranco mi sembra un po' truce. E poi non penso che il presepe ne acquisterebbe in dignità. Che fine a qui è una bella risposta, no? Solamente che Rita va avanti e dice: fossi io, metterei il cretino lì tra le pecore a trascorrere nel presepe tutte le notti al freddo e al gelo, così come vuole la tradizione per il povero bambinello Gesù. Che comunque è sempre meglio di tagliarci le palle. Gianfranco sembra redimersi e dice: hai ragione, poi sarebbe decisamente fuori luogo. Però in questi casi mi si chiude la vena. Ormai se ne vedono di tutti i colori, tutti i giorni, siamo diventati il paese dove il rispetto e l'educazione sono un optional. Che, come direbbero i giovani d'oggi, severo ma giusto. Soltanto che anche lui va avanti. E dice: allora facciamo che se lo beccano viene appeso in piazza sempre per i gioielli di famiglia per tutte le festività. Niente da fare, Gianfranco ce l'ha con i nostri coglioni. Per fortuna però arriva lui a chiudere la discussione, il genio Stefano, che secco, coinciso e sicuro di sé afferma: sono stati gli immigrati. Ciao ragazzi! Andiamo a bere! Un applauso all'Exalge! Il locale più brutto in cui io mi sia mai esibito! Ciao! Andrea Fadenti e Alberto Vitale! Vuoi cantare, Alberto? Qualcuno? Pardon? Manuele Laghi cantava. Non c'è. Niente. Puoi cantare lui. Perché proprio... il fratello del Baffo. Bello, bel nome. Grazie, buonanotte.